sono fatti miei. Magari gli altri, magari quel cash risolvesse e li sbatti. Yeah, da gente così noi ci siamo scappati. Yeah, non ti sono seccati, noi pensiamo più su. Yeah, tipo sulla moon. Yeah, yeah, fuori mood, mai più, non giocavo mai più. Yeah, yeah, sulla moon. Yeah, yeah, moon. Yeah, yeah, hey. Ti dovresti svegliare, non siate amici di me perché sei da lei. Fra viene in ginocchio a chieder pegna, ma sono il tipo che se le segna. Voglio stare solo con me se viene lei. Tra se è un trick quel sì non si capisce bro. Cresci se mi menti per il gusto di farlo. Sono stanco di chi parla tanto ma non si fida poi. Sei qui per dirmi sì poi dopo no. Che tipo di tipi mi capiscono? Dimmi se ti dico così serio. Dimmi ma per me puoi anche non farlo. Siete tutti uguali, non fotti miei. Magari gli altri, magari quel cash risolvessi e li sbatti. Yeah, da gente così noi ci siamo scappati. Yeah, non ti sono seccati, noi pensiamo più su. Yeah, tipo sulla moon. Yeah, yeah, fuori mood, mai più, non giocavo mai più. Yeah, yeah, sulla moon. Yeah, yeah, moon. Yeah, yeah. Sulla moon, dabbi o mi ama o dice bugie. Che ti credi, vedi che se parli di sfighe, ma poi invece sei te, frega boom. A melodia nella glock, che farà ta ta ta ta ta più più più. Dabbi ho perso il controllo, non puoi dirmi di no. Sono solo vuoto mentre sono star. Mi fa star, vedo solo. Se non mai ti farei perché smai. Sempre finché volte non c'è chi fa tutto, tu, e tu non la vederai. Tu mai. Perché siete tutti tali e quali. Non fotti miei. Magari gli altri, magari quel cash risolvessi e li sbatti. Yeah, da gente così noi ci siamo scappati. Yeah, non ti che siamo seccati, noi pensiamo più su. Yeah, tipo sulla moon. Yeah, yeah, fuori mood, mai più, non giocavo mai più. Yeah, yeah, sulla moon. Yeah, yeah, moon. Yeah, yeah.